Salva Danaio di Deborah Rosciani. Eh sì, lo sappiamo che è un orario piuttosto inconsueto ed originale per ascoltare la nostra trasmissione a quest'ora, sono le 15, ma come vi abbiamo già indicato, promesso e spiegato da stamattina, oggi e domani per Radio 24 sono due giornate speciali perché abbiamo organizzato questo Radio 24 Days, due giornate interamente dedicate ai temi finanziari, ai temi legati alla manovra finanziaria del nuovo governo Monti, ai sacrifici che gli italiani dovranno fare a partire dal prossimo anno, perché ce ne vengono chiesti tanti, e quindi anche un po' come tutto questo cambierà la nostra propensione al consumo, al risparmio. Questo almeno è la parte che approfondirà appunto la nostra trasmissione Salva Danaio. Cosa abbiamo fatto oggi di originale? Abbiamo fatto la consueta trasmissione dalle 12 alle 13, poi come vi ho spiegato abbiamo messo a disposizione dei nostri ascoltatori un numero di telefono privato e un gruppo di consulenti che per ben due ore hanno risposto continuamente a tutte le vostre riflessioni, alle vostre richieste appunto sulla gestione del proprio risparmio. E adesso noi vi raccontiamo cosa è successo in queste due ore, ma naturalmente manterremo ancora questo filo diretto con questi interlocutori per continuare a parlare di questo argomento. Come fare adesso una buona pianificazione del proprio risparmio, a chi ci si rivolge, che eventi si seguono, soprattutto su quali strumenti è il caso, a quali strumenti è il caso di affidarsi in questo momento. Allora, intanto vi presento gli ospiti che ci terranno compagnia in questa parte. Ringrazio e saluto Maurizio Bufi, presidente dell'ANAS, l'Associazione dei Promotori Finanziari. Buongiorno e bentornato a Salva Danaio. Buongiorno a voi. Abbiamo oggi il presidente dell'ANAS, perché devo fare un preambolo, che gran parte dei consulenti che ci hanno oggi messo a disposizione la loro professionalità per rispondere anche in privato alle domande degli ascoltatori erano appartenenti ad ASCOFIN, che è l'associazione delle SIM di consulenza indipendente. E domani invece avremo praticamente tutti i promotori finanziari che ci daranno la loro disponibilità a fare lo stesso gioco di oggi, un gioco in realtà ben poco gioco, una cosa molto seria, perché effettivamente esattamente presidente, poi le raccontiamo che cosa ci hanno raccontato ai telefoni i nostri ascoltatori. Molte telefonate oggi se le prese e ha fatto la sua consulenza Giorgio Alfaras, che saluto, presidente di SCM SIM. Buongiorno. E tra l'altro con lui che oggi ha dovuto rispondere a tante domande sul funzionamento della nuova tassazione, i buoni fruttiferi postali, come investo in Svizzera, quali sono le nuove frontiere dei mercati emergenti. In realtà il suo lavoro è proprio questo, molto più economista che consulente di investimento, quindi ci potrà dare anche qualche indicazione su come potrà muoversi il mondo nei prossimi mesi, anche se Alfaras immagino che sia un gioco questo nel quale molti di voi adesso non amano più cimentarsi, o è difficile cimentarsi, oppure riuscite ancora a farla qualche previsione? È talmente facile essere smentiti che c'è un incentivo alla prudenza, ma io farò in modo di non averlo. Io ho intercettato oggi qualche risposta che stava dando ai nostri ascoltatori, poi le racconto. Saluto anche, è in collegamento telefonico con noi, Andrea Ragaini, direttore centrale Private Banking di Banca Carige. Dottor Ragaini, buongiorno e benvenuto anche a lei. Buongiorno a lei, dottoressa, e ai radioascoltatori. Lei che cosa ci racconta, dottor Ragaini? Secondo lei, le faccio la prima domanda che ho fatto anche ai nostri ospiti della puntata delle 12. La manovra finanziaria, i sacrifici che gli italiani dovranno fare a partire da gennaio, cambierà la propensione al risparmio delle famiglie? La manovra finanziaria certamente ha messo in sicurezza, o speriamo che abbia messo in sicurezza, i conti pubblici italiani. La crisi che stiamo vivendo è una crisi dei debiti sovrani, è una crisi dei debiti pubblici, e di conseguenza la messa in sicurezza dei conti pubblici di uno Stato così importante per l'Europa come l'Italia è certamente una notizia positiva. Questo dovrebbe generare, potrebbe generare una riduzione di pressione sui titoli del debito pubblico e di conseguenza attenuare anche le perdite che tanti risparmiatori italiani oggi che sono investiti in titoli di Stato italiani hanno, quindi un inizio di serenità sui mercati che possiamo vedere da un dato importante: la curva dei tassi nella parte a breve, quindi la curva che va dai 3 mesi ai 12 mesi, è diminuita in modo consistente nelle ultime settimane, e questo è un segnale di normalizzazione. Avere una curva dei rendimenti piatta, tutti i tassi sopra il 7%, è certamente un evento molto preoccupante, l'avevamo vissuta un mese fa. Una normalizzazione di tendenza la stiamo vivendo in queste ore. Mentre prima appunto lo spiego ai nostri ascoltatori, la cosiddetta curva del rischio si era invertita, praticamente le scadenze più a breve termine avevano un rendimento più alto. mercato delle scadenze a più lungo termine, per cui un fatto, diciamo, per quello che riguarda la finanza, che è sempre piuttosto originale, no? È sempre piuttosto originale, soprattutto demarca un clima di grandissima sfiducia verso il paese che emette i titoli, quindi avere tassi a breve termine che rendono di più dei tassi a lungo termine implica un rischio effettivo del paese molto elevato, quindi la normalizzazione è un segnale che viviamo certamente con grande serenità e grande fiducia. Che poi questo cambierà il comportamento degli italiani, penso che sia una tendenza che vedremo nei prossimi mesi. Certamente la crisi che abbiamo vissuto evidenzia come sia sempre importante, soprattutto in momenti di bassa certezza come questi che stiamo vivendo, avere un portafoglio molto diversificato. Infatti la regola aurea di sempre, però non di momenti di difficoltà come questo, in realtà la regola principale che in questo momento si sta seguendo da parte un po' di tutti i risparmiatori, e questo è anche piuttosto comprensibile, è la ricerca della sicurezza, della cassaforte sicura. C'è la scialuppa di salvataggio che vale per tutti, dottor Buffi, presidente dell'ANASF, l'Associazione dei Promotori Finanziari? È questo almeno quello che vi chiedono i vostri clienti? Verosimilmente la scialuppa di salvataggio, come la chiama lei, rientra in un metodo per investire, un corretto metodo per investire, a partire dalla pianificazione, a partire cioè dall'allocazione delle risorse in funzione degli orizzonti temporali, di breve, di brevissimo, di medio, di lungo termine. È stata appena qualche secondo fa evocata la diversificazione, che lei giustamente ricordava essere un principio che non scopriamo oggi, ma che anzi oggi in questa fase così prolungata di crisi è ancora più importante rispetto a 2, 3, 4, 5, 10 anni fa, perché diversificare in modo corretto ed efficiente sicuramente aiuta a minimizzare i rischi e per certi aspetti anche a massimizzare delle opportunità, perché sappiamo bene che in situazioni come queste, a fronte di determinati rischi, si presentano anche delle opportunità. Però tornando alla sua domanda, sicuramente la ricerca di sicurezza è una ricerca che tutti chiedono, ma chiedono sempre oggettivamente. In questa fase questa tensione verso la sicurezza è massimamente sviluppata. Sì, è un pochino esasperata, diciamo, non v'è pure, dubbio, ma è anche comprensibile che allora, sia così. Allora, io non ho ricordato che esattamente come facciamo per tutte le altre trasmissioni, anche in questo orario particolare per Salva Danaio, avete il microfono a vostra disposizione, potete chiamarci se non siete ancora stanchi di noi all'800 24 00 24 invece di fare merenda, fare la merenda, appunto uno spuntino magari con il prospetto informativo del vostro prodotto di investimento sottoscritto qualche tempo fa, così da poter verificare se siete soddisfatti dell'investimento che avete fatto, se è il caso di rifare un po' un check-up delle vostre finanze e capire come farlo al meglio. Detto questo, Giorgio Alfaraz, allora, dalle cuffie della radio che indossa in questo momento, fino a pochi minuti fa lei aveva le orecchie infuocate dalle telefonate dei nostri ascoltatori che in tantissimi ci hanno chiamato, ha avuto modo di testarlo, quindi ho dei testimoni che effettivamente l'attenzione è vivissima in questo momento sulla situazione che stiamo vivendo, sulle novità relative alla tassazione e sulla gestione appunto migliore possibile del proprio risparmio. Quali sono le telefonate che ha ricevuto, che io le ho passato e che l'hanno colpita di più? Ma sono quelle che, allora, innanzitutto in termini generali io un panico, paura non l'ho proprio sentito. Non c'era verso che a qualcuno venisse in mente che, non so, il debito pubblico italiano non sarà rimborsato, le cedole saranno dimezzate. Quindi io, come dire, se dovessi confrontare le cose che leggo scritte dai professionisti, le cose che dicono le persone che fanno tutt'altri mestieri e che hanno i propri soldi investiti, direi che il timore, panico sul debito italiano a livello, diciamo, delle masse, se le persone che hanno chiamato sono un buon campione, non c'è. E quindi quando io ho spiegato loro che in quasi tutti i casi che mi hanno chiesto, in fondo bastava ragionare in termini di rendimento alla scadenza, cioè io ho un BTP che scade fra 3 anni, adesso ho un prezzo per dire di 80, fra 3 anni me lo rimborsano a 100, e quindi io ho guadagnato 3 anni di cedole più 20 di capitale, quindi non si capisce. Quando la domanda è risponda, lei pensa che lo Stato italiano sarà solvente oppure no, a nessuno è venuto in mente di dire insolvente, solo paura. L'altra parte della discussione era sulle azioni, quasi tutti hanno azioni bancarie, questa è un'altra cosa interessante, quindi hanno titoli di Stato, i titoli di Stato sono una grossa componente degli investimenti delle banche e hanno le banche, quindi non hanno diversificato, a proposito di diversificazione, perché il debito pubblico se lo trovano la prima volta direttamente nei portafogli e la seconda come, diciamo, agitatore dei prezzi delle banche. oddio l'Italia finirà male, vendi le banche, oddio finirà bene, compri le banche. Quindi le diversificazioni, questa è stata un'altra discussione, che poi alla fine sono quasi sempre false, perché c'è un signore che mi ha detto: io sono molto diversificato, perché ho il conto corrente, il libretto a risparmio, i titoli del tesoro e le obbligazioni di una banca. E gli ho detto: guardi che lei non è affatto diversificato, perché lei è tutto in Italia e tutto in euro. Quindi non è che lei crede, è un diversificato psicologico, ma non effettivo. Poi ci sono state le domande sulla diversificazione. Vabbè, uno che voleva investire in Australia, e lì il ciclo delle materie prime, vabbè, quello almeno. Un altro che mi ha chiesto come si faceva a comprare in Svizzera i franchi svizzeri, e gli ho detto di chiamare una banca svizzera, e si è offeso, perché pensavo che glielo dicessi io, ho detto telefoni. E invece, questa è interessante, una persona che voleva comprarsi, voleva fare investimenti in Norvegia, casomai l'euro saltasse, ecco che io mi trovo ad avere la corona. E lì, devo dire, è stata la discussione più interessante, perché, almeno dal mio punto di vista, perché ho detto a questa signora che lei in realtà non sapeva che nel prezzo del BTP già c'era la crisi dell'euro. Perché se lei prende un BTP a 10 anni, che rende diciamo il 7% per fare i conti tondi, e quello tedesco che rende il 2%, la differenza è il 5%, sì. I famosi 500 punti di spread. Lo spread, lo abbiamo almeno un'altra volta spiegato in termini molto semplici. No, ha fatto benissimo a dirlo. Allora, perché vado avanti per 10 anni con un 5% di differenza, fa il 50%. Non mi faccia l'obiezione al tasso composto, facciamo i conti semplici, perché è di più col tasso composto. Quindi lei dopo 10 anni ha un 50% in più di quanto avrebbe se fosse investito nei titoli di Stato tedeschi. Questo cosa vuol dire? Che o lei pensa che il suo BTP verrà reso a metà al momento della scadenza, invece di darle 100 le daranno 50, oppure che ci sarà di nuovo la lira che si svaluterà del 50%. Con un differenziale di 500 punti base, lo spread, lei ha implicita la previsione che il tesoro sarà per metà insolvente oppure sarà solvente in lire. Gli ha fatto tutto questo ragionamento la signora? Si avvicina al microfono un pochino. E quindi, che era già come dire, la crisi nel prezzo del BTP, e quindi era inutile che si comprasse i titoli norvegesi. Lei mi ha detto: ah, grazie, ho messo giù. Non lo so se mi ha seguito. Beh, insomma, effettivamente ho fatto un po' di fatica anche io, Maurizio Buffi. I vostri promotori finanziari si stanno facendo questi esercizi in questo periodo? Io immagino di sì, perché guardi, gli esercizi ai quali ci stiamo sottoponendo sono i più svariati. Veramente, le trapezisti praticamente. Allora, nonostante molti di noi, anche chi vi parla, ha una lunga militanza in questo settore, scopriamo sempre delle cose nuove, e d'altra parte la crisi che stiamo attraversando ha anche degli elementi di novità. Non è la prima volta, cioè, sicuramente, che attraversiamo delle crisi importanti, ma certamente è una delle prime volte che in modo così diffuso, mi pare che lo dicevate anche questa mattina, si parla di rischio sovrano. Sì. Allora, nell'immaginario collettivo, parlare di rischio sovrano significa parlare di una cosa del tutto nuova, e questo tantissimi di noi potrebbero confermarlo, perché si percepisce questo. Poi io concordo sulle considerazioni che si facevano poco fa, non si riscontra, come dire, non si riscontrano complessivamente, salvo dei casi probabilmente singoli e anche isolati, comportamenti ispirati al panico o alla paura. Quello che si coglie molto di più è la richiesta di informazioni. Questo sì, se prima era la richiesta di informazioni, anche qui ha sempre attraversato un po' la relazione, il rapporto professionale tra operatore e risparmiatore, adesso lo è di più, ma anche questo è un fatto assolutamente comprensibile, perché non vivendo una situazione ordinaria, diciamo così, evidentemente l'esigenza di capire di più c'è, e come si in qualche modo si cerca di soddisfare attraverso una persona a cui farle queste domande. Esatto, paradossalmente potremmo dire che questa crisi ha anche sviluppato un lato evidentemente positivo, no? Se adesso con maggior consapevolezza e anche con meno pudore rispetto al passato si va a caccia di informazioni e si pretende dall'interlocutore al quale... Questo aiuta i risparmiatori che si accingono a prendere decisioni di investimento o le hanno già prese a saper riconoscere sul mercato gli operatori qualificati, sicuramente questo è un fatto positivo. Andrea Ragaini, torno da lei, direttore centrale Private Banking di Banca Carige, poi andiamo anche agli ascoltatori che, ebbene sì, anche nel pomeriggio ci ascoltano. Noi abbiamo fatto questo esperimento oggi che ha quanto pare sta riuscendo decisamente bene, e dal calcio siamo passati al risparmio con una grande leggerezza, e vedo che appunto molti ascoltatori sono contenti di interagire con noi anche nel pomeriggio. Volevo chiedere appunto a Ragaini, visto che abbiamo toccato anche l'altro tema molto importante e molto evidente degli ultimi mesi, osservando l'andamento del titolo di Stato italiano, l'andamento dello spread che veramente ci ha ossessionato fino allo sfinimento e chissà quanto ancora ne dovremo parlare, abbiamo capito che il titolo di Stato è diventato un investimento non più privo di rischio, almeno non più completamente come veniva assolutamente percepito in passato. E allora le chiedo, e almeno le chiedo se questa è una domanda che le fanno i suoi clienti, che alternativa ha fino a chi pochi anni fa o fino a chi pochi mesi fa sceglieva solo il titolo di Stato per collocare il proprio risparmio ritenendolo la cassaforte indiscussa del proprio investimento? Allora, il titolo di Stato non è più un porto sicuro e non è più percepito come privo di rischio per un motivo molto concreto, che il vertice di Deauville, il vertice dei capi di Stato e di Governo del G20 di Deauville dell'ottobre del 2010 ha portato a far sì che in caso di default di uno Stato, in questo caso dell'Eurozona, i soggetti privati partecipassero alla crisi del debito e quindi partecipassero con una perdita in conto capitale. Fino a quel momento davamo per scontato che soprattutto all'interno dell'Eurogruppo, cioè dell'Europa 17, qualunque eventuale fallimento di Stato non sarebbe stato consentito o quantomeno sarebbe stato pagato dagli altri attori che si sedevano attorno allo stesso tavolo europeo. Dal vertice di Deauville la Germania con forte pressione ha fatto passare questa convinzione molto forte, che poi è stata appoggiata dalla Francia ed è diventata realtà. Quindi da quel momento il titolo di Stato è diventato anche per il cliente finale, per l'investitore, un rischio potenziale. Ecco, da quel momento sono cambiate un po' di certezze, di spread, quindi differenziali di titoli rispetto alla sicura Germania sono saliti moltissimo, e l'Italia sta vivendo in queste settimane una tensione ulteriore sui titoli del debito pubblico. Quindi come fare per mettersi al riparo anche dal titolo di Stato che può diventare pericoloso? Beh, la regola è sempre la stessa: avere con anche grande convinzione un'unica classe di investimento che si chiami Stato Italia, si chiami obbligazione di qualunque emittente corporate o si chiami anche Stato Germania, è a livello di investimento finanziario da considerarsi sempre pericoloso. Quindi l'idea di avere un portafoglio, per quanto piccolo o grande sia, che abbia al suo interno delle componenti di forte diversificazione di stati, in parte anche di valute, di settori e di cicli commerciali ed economici, è certamente un elemento di grandissimo valore, soprattutto in questo momento in cui anche i titoli di Stato non sono più considerati un porto sicuro. Ma estremizzando un po' il concetto, si può dire che il concetto di risk free, proprio di rendimento privo di rischio, non esiste più nella nomenclatura finanziaria moderna, cioè tutti i mercati al loro interno hanno delle componenti di rischio che hanno due principali aspetti. Il primo è che ciascuna classe di investimento può essere in sé pericolosa, Bund tedesco compreso. La seconda è che in effetti la correlazione che c'è a livello mondiale ormai ha raggiunto frontiere talmente elevate dovute alla finanziarizzazione dell'economia mondiale. Non dimentichiamoci che abbiamo un prodotto interno lordo mondiale di 60.000 miliardi e strumenti finanziari montati sopra questo prodotto interno lordo di 600.000 miliardi. Quindi con questa finanziarizzazione gli effetti domini possono essere elevatissimi e quindi la diversificazione ricopre un ruolo cruciale. Quindi la risposta è ancora ritorna all'origine. Dottoressa, mi spiace, torno sempre allo stesso principio come un mantra, è la diversificazione delle classi di investimento. Allora, tra l'altro ci stanno facendo molti esempi di diversificazione del proprio portafoglio, molti ascoltatori che ci stanno scrivendo, anche se chiaramente dare indicazioni precise su chi ci scrive, ad esempio come fa Gabriele da Torino, nell'ottica della prudenza, un PAC su paesi emergenti, suddiviso su tre aree geografiche, Europa, Asia, America Latina, può essere una buona scelta, lo può essere in termini assoluti, poi bisogna vedere se è una buona scelta in termini individuali, se questo è un investimento complessivo che va bene per la sua famiglia. Giorgio Arfaras, lei che dice, intanto queste aree come le suddividerebbe? Allora, c'è l'area l'area occidentale, che sarebbe l'Europa e gli Stati Uniti, dove vere diversificazioni non esistono. La borsa americana e la borsa europea vanno circa allo stesso modo. Se poi mette pure il cambio, quindi non mette solo gli indici in valuta. Eh sì, perché diciamo che Wall Street perde molto meno dell'Europa dall'inizio dell'anno. Milano sì, però, perde più del 20%, certo, Wall Street fa meno 5%. Sì, però se lei prende i due grafici, vedi che quando salgono entrambi. Ah, ecco, diciamo, c'è quella coincidenza. Non c'è una vera diversificazione. Non c'è neanche una vera diversificazione all'interno delle borse sui settori, perché da un po' di tempo vanno più o meno tutti allo stesso modo. Quindi non l'idea che se uno è in Europa ma compra gli Stati Uniti, allora diversificato, è un'idea del tempo che fu. Cioè quando c'erano gli stati nazionali, la finanza era nazionale, allora uno, non so, si comprava l'appartamento a Londra, era diversificato. Adesso più o meno le cose vanno in maniera simile. E allora nasce, secondo me, la leggenda metropolitana dei paesi emergenti che sono indipendenti dai paesi emersi e che hanno un grande avvenire, meritato, perché lavorano duro, mentre noi invece siamo giustamente puniti dal fatto perché siamo troppo finanziarizzati. Cioè ci sono anche questi luoghi comuni. I paesi emergenti dipendono dall'andamento dei paesi emersi molto, molto più di quanto si sospetti. Magari fra decenni dipenderanno molto di più da come andranno loro al loro interno. Per il momento così non è, perché se ci fosse una crisi in Occidente, voglio vederli a vendere le loro materie prime, i loro manufatti. Quindi l'idea che i paesi emergenti siano distaccati dal ciclo, per cui convenga accumularli nel corso del tempo, è un'idea che probabilmente, se è vera, sarà vera fra 15-20 anni, ma non è vera nell'immediato. Se ci fosse una crisi qui, queste borse, di solito si nota, quando cadono le borse in maniera pesante nei paesi sviluppati, quelli dei paesi sviluppandi cadono molto di più. Poi comprare le borse. La storia di successo dei paesi in via di sviluppo è la Cina. La borsa cinese è poco sopra i 2000 punti, era 6000 punti 4 anni fa. Quindi diciamo che lo sviluppo di questi paesi non si riverbera, sembrerebbe, dalle azioni, né sulle azioni. Forse si riverbera, non so, negli appartamenti di lusso. Quindi ci sta dicendo che tutti quelli che ci dicono di diversificare collocando una buona parte del nostro patrimonio anche su queste aree emergenti, che comunque negli ultimi anni hanno rappresentato un ottimo ammortizzatore rispetto ai cali delle altre piazze finanziarie occidentali e già ben emerse, non è più una... È da vedere, perché in borsa... Bisogna vedere se tutta la crescita futura è già nei prezzi, perché la borsa non ha nei prezzi l'oggi, ma le aspettative. Poi le aspettative naturalmente possono essere sbagliate. Va bene, Maurizio Buffi, lei che ne pensa? Ma guardi, intanto vorrei recuperare, se non ho capito male, la domanda che ci fa il radioascoltatore. Nell'ottica dicendo... della prudenza parte dal PAC, intanto piano di accumulo, quindi a prescindere allora, prima ancora questo... il modus operandi sul paese emergente. Allora, io non entro in materie che non sono di mia specifica competenza, devo dire che le cose che ho appena ascoltato mi trovano abbastanza d'accordo. Direi che se posso aggiungere qualcosa della finanziarizzazione o della globalizzazione, cerchiamo di prenderci anche qualcosa di positivo e non soltanto tanto quello che c'è cioè, di negativo di per sé. L'intervento che ci ha preceduto era abbastanza chiaro da questo punto di vista. Il PIL rispetto all'entità della finanziarizzazione del mondiale è un rapporto di 1 a 10, se non ricordo male, o se non di più, e quindi questo evidentemente incide poi sulle dinamiche per certi aspetti anche nuove. Ebbene, allora, alcuni comportamenti come quello di investire un po' per volta, lo dico proprio in modo molto semplice, molto banale, e di farlo soprattutto su mercati ad alta volatilità, come sono per definizione i mercati azionari, è un buon metodo di investimento. Poi non è detto che valga per tutti, perché noi abbiamo sempre detto che mi sembra giusto che nel momento in cui si danno consigli, suggerimenti o si promuovono determinate soluzioni piuttosto che altre, il rapporto si deve personalizzare. Allora il piano di investimento deve avere per forza di cose un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, e quindi vengo al discorso che facevo inizialmente. Pianificare le scelte di investimento è una regola che andrebbe seguita con molta attenzione, così come richiamare, come è stato fatto prima di me, il concetto di diversificazione la più efficiente possibile, certamente aiuta a minimizzare i rischi. Poi è verissimo che le correlazioni sono saltate, per cui evidentemente anche i paesi emergenti risentirebbero di un ciclo debole dei paesi più industrialmente avanzati, però alcune regole auree dobbiamo continuare ad applicarle. Tra l'altro aggiungo che chi ha a disposizione piccoli capitali, così con queste modalità, utilizzando anche gli strumenti del risparmio gestito, è in grado di approdare a quei mercati, a quegli strumenti che da solo non riuscirebbe mai a intercettare. No, ma per fortuna poi, tra l'altro, perché immaginiamo un po' se partisse la moda, che in realtà è stata anche un po' la tentazione di qualche anno fa, di andare tutti ad investire direttamente sul mercato cinese, un mercato inaccessibile, complicatissimo, nonostante abbia il duplice listino, uno per gli investitori stranieri, uno per quelli domestici. Vabbè, lasciamo stare. Se posso aggiungere, sì, certo, solo una considerazione. Prima si diceva c'è un pre-Deauville e un post-Deauville. Mi ricorda un po' questa cosa, la famosa passeggiata di Deauville che molti giornalisti hanno ricordato tra la Merkel e Sarkozy, prevalentemente. Come c'è stato prima un pre-Lehman, un post-Lehman. Sì. Allora, il grande salto, chiamiamolo così, culturale che gli operatori da una parte e i risparmiatori dall'altra debbono fare è che siamo in presenza, o rischiamo, lo dico tra virgolette, di essere in presenza di fatti nuovi che prima non si erano mai verificati. Quando prima evocavo che nell'immaginario collettivo il rischio sovrano è qualcosa che non albergava nella mente di molti di noi, no, è perché non si era mai verificato. Allora bisogna sì, ci abituare. Non si era mai verificato, sì, qua da noi, no, non, si non in queste dimensioni, esatto, non con queste caratteristiche, certo, in questo senso. E allora ecco, attrezzarci in questo senso vuol dire che siamo pronti anche a gestire intanto i rischi estremi che possono verificarsi, e quindi questi vanno affrontati. Tanto più abbiamo un portafoglio pianificato e diversificato e ben gestito e ben seguito, tanto più minimizziamo i rischi e, aggiungo, ripeto, massimizziamo a volte anche le opportunità. Allora, a proposito di diversificazione, un'altra cosa che abbiamo appreso oggi ascoltando le telefonate degli ascoltatori che ci hanno chiamato in privato è che in realtà c'è molto risparmio postale in giro, questo lo sappiamo, e molti ascoltatori ci hanno chiesto chiarimenti e delucidazioni molto dettagliate a proposito della nuova tassazione che parte dall'anno prossimo su tutti quanti i prodotti di investimento, loro buoni fruttiferi e quant'altro. Io per oggi escludo la discussione su questo argomento, lo dico a tutti gli ascoltatori che stanno continuando a scriverci anche in questo momento, vi prometto a questo punto, domani devo rifare un altro lavoro come quello che abbiamo fatto oggi, quindi consulenza a 360 gradi su mercati, bond, azioni e quant'altro. Sui libretti di risparmio, buoni postali, a questo punto sono costretta a promettervi che faccio la trasmissione, quindi lo dico ad Alessandro Longoni, giovedì, e di nuovo rifacciamo a 360 gradi la tassazione su questi prodotti di investimento, perché gli italiani ne hanno moltissimi e quindi è giusto anche prendersi cura di queste persone che hanno risparmio considerato molto semplice, e però adesso la tassazione nuova va ad intaccare anche questi, vi ha spiegata loro appunto la rimodulazione della tassazione su questi prodotti. Di che parliamo adesso? Tra poco devo fare la borsa, sì, quella delle 15.30, però faccio in tempo a sentire la domanda di un ascoltatore. Il primo che si era messo in lizza era Stefano da Roma, e quindi lo sentiamo e gli rispondiamo dopo. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Senta, una domanda banale, ma rispetto al rischio dei titoli di Stato, no? Che oggi offrono un rendimento interessante. Sì. E c'è la storia che è un investimento rischioso e si cerca la diversificazione. Ma voglio dire, l'assioma è che quel titolo diventa rischioso se c'è un default. Quindi significa un evento catastrofico, cioè il default di un paese del G7. Abbiamo messo in crisi il sistema mondiale col fallimento di una banca, figuriamoci se fallisce l'Italia. E per questo allora motivo mi chiedo, ma il rischio sistemico c'è veramente? E a questo punto dico, ma le banche che fanno? Li stanno comprando? E consigliano ai risparmiatori di comprarli. Va bene, Stefano. Sì, beh, sa come sai, in Italia c'è stato anche il BTP Day, il Bot Day, anche se poi in realtà non hanno fatto grandi numeri queste operazioni. Però questo non ci interessa, ormai è acqua passata, adesso andiamo un po' al rischio un po' più globale, che ancora è un timore che alberga nell'animo di molti ascoltatori, molti risparmiatori, quindi è giusto anche rispondere a queste osservazioni. Salvadanaio. Ebbene sì, oggi vi cuccate il salvadanaio a merenda, ancora buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Come sapete, adesso a parte gli scherzi, Radio 24 ha messo in piedi questa iniziativa speciale oggi e domani, due giornate interamente dedicate ai nostri ascoltatori per rispiegare loro, che ne hanno già fino alla nausea, ma a quanto pare di sete di informazioni in questo periodo non se ne hanno abbastanza, insomma, di informazioni a giudicare dalla sete dei nostri ascoltatori. E allora ribadisco, Radio 24 ha organizzato questa iniziativa speciale, due giornate in cui le trasmissioni sono quasi state tutte quante capovolte e tematizzate sulle questioni della crisi, la manovra finanziaria e tutte le novità che riguarderanno noi tutti a partire dal prossimo anno e che ci stanno già riguardando. Ci stanno già riguardando da molti mesi le novità che investono i mercati finanziari, perché come sapete la borsa è ancora molto incerta e soprattutto abbiamo assistito a questo fenomeno nuovo del rischio che si è attaccato in maniera molto fastidiosa anche in certi momenti al titolo di Stato italiano, e questa era l'ultima riflessione sulla quale eravamo rimasti con un nostro ascoltatore che rifaceva un nuovo ragionamento sui livelli di rendimento che i titoli di Stato italiani stanno registrando da molti mesi, il differenziale di rendimento con i titoli tedeschi sempre molto elevato, sempre più appunto largo. E allora lui dice, esiste, è stato scongiurato del tutto, chiedeva Stefano, oppure esiste ancora?

E cioè le banche di credito ordinario fanno il lavoro che negli Stati Uniti e in Gran Bretagna fa la banca centrale, si ha una compressione dei rendimenti e dunque man mano che il debito scade, il debito viene rinnovato a costi più bassi, risanamento esatto, fatto, fatto bingo. Ecco. In maniera più sostenibile. E quindi questo dovrebbe scongiurare la paura dell'ascoltatore che ci ha chiamato prima. Sì, scongiurare non vuol dire eliminare, ma io penso che sia ragionevole. Ridimensionare in maniera molto drastica. Allora, adesso altre domande per i nostri altri due interlocutori, e cioè per Maurizio Buffi e per Andrea Ragaini. Andiamo un po', chi è che stava aspettando da un po' il numero 4? Paolo da Lecce. Paolo, buongiorno. Anche qua, peraltro, un tema che nelle nostre telefonate in privato oggi è stato battutissimo e ricercatissimo. Paolo, buongiorno. Buongiorno, salve, grazie per avermi richiamato. Senta, piccolo scenario personale. Nei prossimi giorni dovrei ricevere una somma liquida, 100.000 euro. Siccome ho anche un po' paura dell'euro che possa fallire, ma non proprio quello, ma soprattutto se riaccende l'inflazione, quindi vorrei proteggere questo investimento, dovrei diversificare almeno un terzo in oro. Non so se questo quale può essere lo strumento migliore, comprarlo e metterlo sotto il materasso, non il lingotto, oppure un bel gioiello per la sua fidanzata. Paolo, guardi, un ETF, c'è uno strumento finanziario, esatto, ci sono tante alternative, ci sono i marenghi, quelli della regina Elisabetta II, insomma le opportunità per diversificare nel metallo giallo sono tante. Maurizio Buffi, il promotore finanziario, arriva Paolo che gli chiede: ma io invece dei tuoi fondi di investimento, invece delle SICAV che tu mi proponi, invece del conto di deposito che tu mi, magari il promotore un po' meno questo lo spinge, detto questo io voglio assolutamente mettere un terzo del mio risparmio, che tra l'altro adesso ha questa entrata straordinaria, io adesso voglio l'oro e non si discute, che fa? Ma io credo che la risposta sia un po' quella che le ha dato lei, ovvero sia se si è dotati nell'ambito delle proprie possibilità, cioè dell'offerta dei prodotti e degli strumenti finanziari che risponde in qualche modo direttamente o indirettamente, ora non penso tanto ai lingotti fisici intesi in senso stretto quanto a degli strumenti finanziari agganciati all'oro o al prezzo dell'oro, si dà una risposta affermativa evidentemente al proprio interlocutore, altrimenti è buona regola vuole indirizzarlo nei confronti di chi eventualmente è in grado di soddisfare questo tipo di richiesta. Se una richiesta di questo genere è molto, come dire, convinta, nel senso che l'ascoltatore diceva: io un terzo, almeno un terzo di queste disponibilità vorrei allocarle in direttamente o indirettamente in uno strumento che secondo le personali valutazioni dell'interlocutore è in grado di darmi la sufficiente sicurezza o addirittura tutelarmi dal punto di vista dell'inflazione. Tra l'altro bisognerebbe fare anche un ragionamento sulla capacità dell'oro di proteggere il proprio investimento, perché sì, abbiamo visto che dal grafico dell'ultimo decennio magari la direzione era sempre in salita, ma ci sono anche dei momenti con delle discese molto dirompenti. Il mercato dell'oro è un altro mercato che spesso ha rappresentato qualche sorpresa non del tutto piacevole, evidentemente. No, anche qui quindi torniamo al tema originario, cioè nulla di per sé è sbagliato purché sia una scelta consapevole, bisogna capire poi a che tipo di rendimento rischio si è in qualche modo tolleranti o piuttosto avversi, quindi si rappresenta gli scenari possibili, e anche qui torna ad essere estremamente utile la possibilità, ma mi sembra che implicitamente c'era nella domanda dell'ascoltatore, di avere comunque un set di attività e non una soltanto, e questo mi sembra già un passo avanti. Lo dico perché non è così scontato che sia sempre così, indipendentemente adesso dalla domanda specifica sull'oro, perché sarebbe potuta essere una domanda sui paesi emergenti piuttosto che sulle valute, l'abbiamo sentito. Certo, l'orientamento anche prima su alcune valute extra euro, adesso senza raggiungere il dollaro australiano piuttosto che la corona norvegese, ma molti stanno dando indicazione anche sul dollaro americano, però bisogna essere consapevoli che sulle valute anche qui le previsioni molto spesso sono fatte per essere totalmente disattese, infatti, soprattutto nel breve periodo, per cui a quel punto salterebbero tutti i paradigmi per i quali io ho approntato quell'investimento, perché non ne avrei più sicurezza in termini di garanzia. E allora, come sempre, qui il buon senso, la prudenza e una sana e corretta diversificazione, tenendo conto che da queste telefonate non siamo in grado di capirlo, ma dal confronto sì, qual è la tolleranza o l'avversione al rischio del risparmiatore e dell'interlocutore. Mi devo fermare perché ho un'altra pausa. Stavo intanto osservando e leggendo le anteprime che le ragazze del centralino, che peraltro ringrazio perché oggi sono di nuovo a nostra disposizione, tutta la squadra delle ragazze che tutti il giorno della mattina alla sera rispondono all'800 24 00 24. C'era una signora Agnese che non faremo in tempo appunto a risentire, ma magari prendo così spunto dalla sua domanda per farci una trasmissione un po' più avanti. C'è questa signora che ci racconta che sta mettendo soldi da parte per il suo nipotino in un salvadanaio, è una signora anziana, 75 anni. Le banconote domani saranno ancora ritenute valide? Pensate un po' che domanda ancora si fanno i nostri ascoltatori. Noi speriamo di sì, Agnese, ci mancherebbe altro. Il tema è che mettendole dentro il salvadanaio, sicuramente da qua ad un anno il valore che lei pensa che adesso ci sia dentro sarà eroso dall'inflazione. È un'erosione che lei non vede, ma che nella sostanza c'è. Quindi un po' quel portafoglietto varrà un po' meno fra un anno, due anni, rispetto al valore appunto che lei pensa di conservare e mettere da parte. Salvadanaio. Ci ancora insieme per l'ultima parte di Salvadanaio speciale pomeriggio. Ebbene sì, oggi mangiate pane, cioccolata e un po' di soldini. D'altronde in questo momento bisogna stare molto attenti appunto su questi argomenti, perché come sapete sono arrivate tante novità e probabilmente molti di noi passeranno un po' così il Natale facendo un po' un bilancio delle entrate e delle uscite che si sono verificate nel corso dell'anno e che probabilmente l'anno prossimo potranno cambiare, perché ci saranno più uscite di tasse, forse un po' meno entrate, e risparmio farà un po' più difficoltà ad essere accantonato, ma se lo si riesce ad accantonare bisogna farlo al meglio. Allora cerchiamo un po' di capire i nostri esperti che cosa indicano adesso e quali strade è meglio perseguire, fermo restando che Andrea Ragaini, magari raccomandiamo ancora le solite cose che qualche volta si perdono un po' di vista. Non esiste una strada che vada bene per tutti, ma ognuno deve perseguire appunto la strada che va bene per sé e per la propria famiglia e per le proprie esigenze. Ho detto una banalità, ma forse queste banalità qualche volta vanno rimarcate con grande forza. Assolutamente, sono gli elementi centrali in tutti i processi di investimento di tutti i patrimoni, a prescindere poi dall'entità del patrimonio stesso. Abbiamo parlato prima di debito, abbiamo parlato prima di crescita e di liquidità, e sono tutti temi che sono al centro dell'attenzione dei mercati finanziari in questo momento. Il tema dell'Europa è un tema certamente di debito ed è un tema di crescita. Il debito di per sé non è mai un male, dipende poi dalla redditività che io posso mettere al servizio del debito e quindi dalle entrate che posso avere sul debito. Il debito spagnolo in termini assoluti è più piccolo dell'Italia, ma soprattutto è più piccolo in relazione alla PIL che genera il debito spagnolo, e l'Italia sta andando molto peggio della Spagna. All'inizio dell'anno siamo partiti con uno spread noi di differenziale di rendimento sui titoli tedeschi di 180 punti base, quindi di 1,80 punti percentuali. La Spagna allora aveva 2,50 punti. In questo momento noi siamo a 4,63 punti. La Spagna è a 2,90 punti, quindi abbiamo avuto un'inversione totale, perché i mercati in questo momento stanno penalizzando le nazioni con alto debito. Quindi anche i titoli di Stato, dicevamo, non sono più di per sé e da soli un porto sicuro, anche se i numeri italiani, è importante ricordarlo, sono straordinari, probabilmente tanto diversi da quelli che il mercato in questo momento sta dando. Abbiamo un risparmio privato di 8.600 miliardi a fronte di un debito pubblico di 1.900 miliardi, questo è un dato sempre da tenere sotto grande attenzione. E poi abbiamo una presenza di un mercato immobiliare che non ha grossi squilibri come invece hanno tanti altri mercati, tra cui quello spagnolo. Esatto. E abbiamo la capacità, si diceva prima, anche il dottor Busi lo ricordava, di produrre avanzo primario, quindi è un elemento che poche nazioni in Europa hanno, noi e la Germania in questo momento. Quindi tutti elementi positivi che comunque portano a dire che anche in questo momento solo i titoli di Stato non sono sufficienti per avere un portafoglio diversificato, e la diversificazione, l'abbiamo sentito prima, è tanto differente, con la correlazione tra gli Stati mondiali, con la correlazione che c'è sempre più sviluppata e con la globalizzazione lo sarà sempre di più, diventa sempre importante diversificare tra classi di investimento di primo livello, secondo livello e terzo livello. Quindi la diversificazione è sempre importante. L'ascoltatore di prima ricordava l'importanza del PAC, è un ottimo strumento per riuscire a compensare la volatilità, però la diversificazione va fatta primariamente tra classi di investimento di primo livello, azioni, obbligazioni, monetario, poi di secondo livello quali paesi, e poi sulla parte obbligazionaria obbligazioni di titoli di Stato governative, obbligazioni societarie, tasso fisso, tasso variabile, duration. Quindi la diversificazione non ha un solo nome, un cognome, ma ha tante declinazioni, e quello di riuscire a costruire portafogli di investimento fortemente diversificati in tutte queste componenti che ricordavo, è l'elemento centrale che riguarda, ripeto, tutti i patrimoni, non solo quelli grandi. Infatti, e poi partirei anche dall'altro presupposto fondamentale: a cosa mi serve quel denaro? Ci devo costruire la pensione che utilizzerò fra 40 anni, 50, 60, oppure mi servono fra 2 anni perché devo comprare casa? Quindi anche quello è un altro tema che bisogna sciogliere sempre dall'inizio con il proprio consulente finanziario, un tema che invece molto spesso non viene chiarito con non viene chiarito chiaramente, a sufficienza esattamente tra il risparmiatore e il consulente. Poi si trovano ovviamente magari risparmiatori che hanno acquisito, sottoscritto prodotti di investimento che, ha come dire, scioglierli e smontarli costa un bel po', e magari quei soldi servono subito, quindi anche quello, chiarire molto bene quello di cui si ha bisogno. Volevo ringraziare Ragaini peraltro per il confronto con Madrid che ha fatto, che ha riproposto un po' anche quello che ha proposto stamattina il Sole 24 Ore, la pagina 5, la partita Italia-Spagna si gioca sul campo del debito pubblico. Chi chiamiamo adesso? Un altro ascoltatore. Allora, prodotti di investimento di vario genere, abbiamo lasciato fuori fino a questo momento l'altro grande ricercatissimo investimento delle famiglie italiane, che è il mattone. E ci sono molti ascoltatori che stanno chiamando, ovviamente denunciando il fatto che in questo momento accedere ad un mutuo è praticamente mission impossible presso la banca, a meno che non si chieda una cifra molto contenuta e non si abbia la capacità di anticiparne un bel po' di soldi per fare l'acquisto della propria vita, e la casa molto spesso rappresenta proprio questo. Vorrei sentire allora, c'era un ascoltatore su questo, è Sandro da Verona. Sandro, buongiorno. Sandro, buongiorno. Abbassi la radio per carità, grazie. Buongiorno. Ci dica. Senta, l'informazione è questa: praticamente, non avendo bisogno di mutuo, è il momento giusto per guardarsi attorno per prendere un immobile? Anche lì, Sandro, noi abbiamo fatto tante trasmissioni su questo, adesso non so se i miei interlocutori di stamattina hanno voglia di spendere 2 parole anche su questo, che non è proprio esattamente il loro campo. Sa com'è? Per me la casa è la mia casa, quindi non c'è un momento migliore, piuttosto che c'è un momento magari in cui si può negoziare un po' di più con il possibile venditore, quindi magari spuntare qualcosa di più sul prezzo. Maurizio Bufi, che cosa ne pensa? Tanto parte da un vantaggio l'ascoltatore che non ha bisogno dal mutuo, e questo già mi sembra una buona cosa. Tralasciando adesso le questioni attinenti ai mutui e quindi a questa difficoltà da parte di alcune famiglie di accedervi di fatto rispetto a quello che mettono a disposizione le banche e il sistema creditizio in generale, ma l'investimento immobiliare, intanto giustamente lei ricordava che quello che viene considerato l'investimento in assoluto nell'immobile è la propria casa, la casa d'abitazione, che è un bene essenzialmente di natura relazionale, vorrei dire, dove si prescinde dal fatto che convenga o meno farlo in un determinato periodo. Attenzione, perché anche gli investimenti immobiliari hanno i loro cicli, ovviamente sono cicli diversi da quelli del mercato finanziario, ma bisogna sempre saperli in qualche modo conoscerli. Ci sono state notoriamente il prezzo, come dice, il costo degli immobili tiene nel tempo, ma questo è vero anche per altre attività non immobiliari. Quindi, come sempre, ci vuole anche qui avere una proprietà immobiliare, non guasta, ma d'altra parte l'80% degli italiani sono proprietari di casa, e per il resto forse tornare a quei principi che prima citavamo e che non ripeto perché forse molti ascoltatori l'hanno già sentiti, sono da privilegiare. Fra 40 secondi devo chiudere, Arfaras, le concedo la conclusione. Infatti, se uno studia la percentuale di popolazione che possiede una casa, tipo l'Italia, l'80% degli italiani possiede casa, e i tassi di disoccupazione, toglie dal tasso di occupazione le donne, perché in certi paesi per ragioni culturali possono non lavorare, scopre che c'è una relazione che è la seguente: tanto più proprietari di casa ci sono, tanto più c'è disoccupazione. E il motivo è che, avendo la tua casa, non ti sposti a cercare lavoro. Quindi attenzione ai paradossi dell'economia. Questo colpo di scena finale concessoci da appunto Giorgio Arfaras. Noi vi salutiamo dopo avervi stressato tutto il giorno, ritorneremo a farlo molto volentieri domani con la stessa modalità. Salvadanaio, le 12 in diretta, 2 ore di consulenza in privato con un gruppo appunto di promotori finanziari che ci ha messo a disposizione l'ANAS, e poi un'altra diretta dalle 15 alle 16. La Deborah Rosciani, grazie a Maurizio Bufi, Giorgio Arfaras, Andrea Ragaini. A domani. Salvadanaio.